English Bit di Giulia Crivelli. 5 to 12. I can't really say it's 5 to 12. 11 maybe, but time is running out. È così che l'amministratore delegato di uno dei più importanti marchi svizzeri di orologeria di alta gamma ha spiegato la sua posizione sull'e-commerce e più in generale sull'utilizzo che il lusso fa dei social network. L'espressione 5 to 12 significa letteralmente 5 minuti a mezzanotte e dà l'idea di un'impellente e perigliosa scadenza temporale. Per il manager, l'azienda che sta guidando non è ancora nella posizione di affrontare quella scadenza, ma ci si sta avvicinando. Sono le 11, ha aggiunto per chiarire. 11, maybe. Specificando che time is running out, il tempo sta per esaurirsi. Il ragionamento riguarda tutti i luxury brands, i marchi del lusso, a dire il vero, non solo l'alta orologeria. L'uso dell'e-commerce e di internet in generale non è ancora visto come una priorità e una vera opportunità di business, ma molti stanno cercando di recuperare, to catch up in inglese. Un phrasal verb molto usato, proprio come to run out of something, che possiamo tradurre con esaurire qualcosa. Nel caso appena citato si tratta del tempo, ma possiamo anche dire we are running out of gas, please stop at the first station you see. Stiamo finendo la benzina, fermati per favore alla prima stazione di servizio che vedi. Ma torniamo a 5 to 12, letteralmente dicevamo 5 alle 12, un modo per indicare le 11.55 o le 23.55, perché gli americani dicono 12 a.m., 12 p.m. se proprio devono chiarire, non dicono come noi 23. Molto simile quindi a quello che usiamo in italiano. Come accade con a quarter to 12, un quarto alle 12. Un po' diverso invece l'uso di past. A quarter past 12 significa ovviamente le 12 e un quarto, ma molto difficilmente noi diremmo un quarto dopo le 12. Altri idiom sul tempo, alcuni simili ai nostri, altri meno, sono better late than never, meglio tardi che mai, oppure against the clock, che letteralmente significa contro l'orologio, ma equivale all'italiano contro il tempo. O ancora all in good time, tutto a buon tempo, letteralmente, ovvero tutto a suo tempo. Interessante infine l'espressione living on borrowed time, letteralmente vivere di tempo preso a prestito, un'espressione usata per indicare chi ha scampato un pericolo, spesso di vita, e da quel momento vive come se ogni attimo fosse un dono.